Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Ho avuto sempre la pressione bassa. Sì. Quando è? Aspetti. Sentiamo, no? 120, signora. È un po' bassa, dovrei avere 130, 140. Chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Meglio bassa che alta, no? E voi conoscete i numeri della vostra pressione? Sono due, una per la pressione sistolica, la massima, e una per la pressione diastolica, la minima. Se li conoscete, sarà un gioco da ragazzi anche misurare la differenza tra i due valori, che può fornirci indicazioni utili. Ne parleremo nel corso della trasmissione, quindi pronti a darci i vostri numeri e, se non li conoscete, a individuare con noi i segnali sospetti che possono tradire degli sbalzi pressori. Ma attenzione, oggi non ci limiteremo a parlare di pressione sistolica, diastolica o differenziale o pulsatoria, che dir si voglia, quella che misura la differenza tra la massima e la minima, ma di un altro tipo di pressione che dobbiamo conoscere, misurare e soprattutto imparare a tenere d'occhio, che è la pressione oculare. Se aumenta, può causare nel tempo danni permanenti alla vista. Ne parliamo oggi in occasione della Settimana Mondiale del Glaucoma. Il glaucoma è una malattia che colpisce il nervo ottico e che rappresenta una delle più frequenti cause di cecità o ipovisione, e che nella maggior parte dei casi è proprio dovuta a un aumento della pressione interna dell'occhio. Pensate che in Italia sono circa 1 milione le persone malate di glaucoma e solo la metà ne ha conoscenza, quindi chiamateci per saperne di più. Di altri numeri parleremo invece nella seconda parte. Per la pagina di denari torneremo a parlare, e lo facciamo per la seconda volta questa settimana, per cui è evidente che è un tema sempre molto interessante, di mutui e di rate che lievitano fino al punto in cui molti non riescono più a pagare, ed è quello che sta succedendo a chi ha sottoscritto fra il 2003 e il 2009 mutui indicizzati al franco svizzero, casi che riguardano, per quasi tutte le segnalazioni che riceviamo e che ricevono le associazioni dei consumatori, e sono tante, la banca inglese Barclays, che peraltro non ha più sportelli sul territorio, per cui queste persone non trovano più neanche un interlocutore fisico al quale rivolgersi. La banca ha prestato denaro in euro in quel periodo, ma adesso pretende la restituzione in franchi, e chi chiede di poter chiudere questo mutuo, praticamente la superrata finale che dovrebbe pagare è il doppio del mutuo inizialmente stanziato. Una situazione che ha dell'incredibile, un quadro che lascia poco da aggiungere, se non che a tutto questo si aggiunge una comunicazione appunto pressoché impossibile con questa banca, come dicevamo. Per cui 800 24 00 24, se siete tra queste famiglie, se conoscete qualcuno che è incappato in questa disavventura, ascolteremo le testimonianze degli ascoltatori e sentiremo anche cosa suggeriscono di fare le associazioni dei consumatori. E sì, come anticipato, la parola chiave della parte di cuore di oggi è proprio pressione. Tutti noi sappiamo bene quanto sia importante controllare i valori della pressione arteriosa, di cui tra l'altro torneremo a parlare proprio nel corso della nostra trasmissione, ma non basta, dobbiamo conoscere e controllare anche la pressione interna dell'occhio. Se ne parla poco, molti non l'hanno mai controllata, ma è di fondamentale importanza per la nostra vista. Ne parliamo oggi con il dottor Francesco Done, che è responsabile dell'unità operativa glaucoma dell'IRCCS Fondazione Bietti di Roma. Dottore, buongiorno e grazie per essere con noi. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Dottor Odone, ci aiuti intanto a capire di che cosa stiamo parlando, spiegandoci che cosa si intende per pressione oculare e soprattutto a che cosa serve. Dunque, immaginiamo l'occhio e la sua forma, quindi approssimativamente sferica. E la sua consistenza è duroelastica, e questa consistenza è dovuta alla pressione che vi è all'interno. Certo. Quindi una pressione normale normalmente varia tra 10 e 20 mm di mercurio nella popolazione sana. Questa pressione è il risultato dell'equilibrio tra la produzione e il deflusso di un liquido trasparente chiamato umore acqueo. Quando vi è un ostacolo al deflusso dell'umore acqueo, si ha un aumento della pressione oculare, e a lungo andare questo aumento danneggia irreversibilmente la testa del nervo ottico. È come se si otturasse un lavandino, dottor. È come se ci fosse un rubinetto sempre aperto ed un deflusso che deve essere libero. Quindi in alcune persone questo deflusso, per cause a volte note, nella maggior parte dei casi invece non identificabili, si ottura, per cui il lavandino straborda, invece l'occhio, che è un sistema chiuso, va incontro ad un aumento della sua pressione. Che lei ci anticipava, danneggia il nervo ottico. danneggia il nervo ottico, che è proprio quel nervo che è responsabile del trasferimento della vista dall'occhio al cervello. Quindi una volta danneggiato questo nervo, sostanzialmente si ha una disconnessione dell'occhio dal cervello, quindi le immagini non vengono più trasferite, la vista progressivamente si riduce, di solito dalla periferia, quindi con danni alla periferia del campo visivo, fino a, in assenza di una terapia ovviamente, a condurre alla cecità. Ecco, parliamo di una malattia, il glaucoma, che è molto subdola, insidiosa, che non sempre si manifesta con sintomi chiari, tanto che è stata ribattezzata ladro della vista. In Italia sono circa 1 milione le persone malate di glaucoma e solo la metà ne ha conoscenza. Ecco, vorremmo raggiungere sicuramente quella metà oggi con queste informazioni, anche perché basterebbe un controllo per fare diagnosi e intercettare un glaucoma in fase iniziale o ancora non grave, perché se è vero che il dottor Oddone l'ha ben anticipato, che questa malattia è una delle cause più frequenti al mondo di cecità e ipovisione, è altrettanto importante sapere che è una malattia che rientra tra quelle che traggono massimo vantaggio dalla prevenzione secondaria e quindi da una diagnosi precoce. Un controllo, lo sottolineiamo sempre, tutte le volte che parliamo di vista, può davvero salvarci la vista. Dottor Oddone, che cosa è importante sapere? Quali sono i fattori di rischio e soprattutto quali sono quei segnali che dovrebbero metterci un po' in allerta? Sì, come giustamente ha detto lei, il glaucoma è una malattia molto subdola, può lavorare nell'ombra per anni e anni senza che la persona affetta se ne possa accorgere, quindi è asintomatica per una fase molto lunga della malattia. Durante questa fase la vista viene danneggiata irrimediabilmente, senza appunto che la persona affetta ne sia consapevole. Ecco, ma progressivamente la nostra vista, dottor Oddone, cambierà, succederà qualcosa, ci sarà un restringimento del campo visivo, vediamo le mosche, ci dà fastidio la luce, che cosa succede? Guardi, per la maggior parte della storia naturale di questa malattia i sintomi sono assolutamente assenti. In realtà quello che la letteratura scientifica ci dice è che se andiamo a scavare bene qualcosa troviamo, per esempio le persone affette da glaucoma che non sanno di averlo, anche in fasi relativamente precoci della malattia, hanno un maggior rischio per esempio di incidenti stradali, certo, se sono automobilisti. E vanno incontro più frequentemente a cadute nell'ambiente domestico, anche nell'ambiente extradomestico, però tutti questi eventi vengono raramente ricondotti ad un problema attivo di glaucoma, quindi sia un incidente stradale si attribuisce magari alla distrazione. E in realtà quindi quando ci si accorge effettivamente di avere un difetto del campo visivo quasi sempre si è in una fase molto molto avanzata, direi. È un po' tardi. Dottor Oddone, tra i fattori di rischio più importanti sono da ricordare sicuramente l'età. Il rischio di glaucoma infatti aumenta con l'aumentare dell'età, tanto che bisognerebbe cogliere l'occasione, il momento quando si diventa presbiti, perché questo è un regalo degli anni, non è un difetto, no? Ecco, di fare un saltino anche dall'oculista e farci misurare la pressione oculare. Ci sono degli altri comportamenti che ci mettono a maggior rischio di sviluppare il glaucoma, uno stile di vita, delle abitudini? Guardi, l'età sicuramente è la cosa più importante che noi dobbiamo considerare, come ha detto giustamente, ecco, ai 40 anni è opportuno piuttosto che fare un occhiale semplicemente dall'ottico sottoporsi ad una visita oculistica completa e da lì in poi almeno una volta l'anno. E un altro fattore di rischio molto importante è la familiarità, quindi se si ha un familiare consanguineo, quindi affetto da questa malattia, il rischio è molto più elevato. Certo. Non è detto che lo si sviluppi il glaucoma, non c'è un'ereditarietà. Però se ci sono diretta, dei casi in famiglia, questa è una buona ragione per farsi dare una controllata in più. Anche prima dei 40 anni in quel caso. E poi anche l'uso prolungato di farmaci a base, ecco, di cortisone, è vero che potrebbe aumentare, sì, il rischio, sia somministrato in forma di collirio che in altre forme? Assolutamente, diciamo che è forse l'unica forma di glaucoma in cui è possibile fare una prevenzione primaria. E il cortisone è un farmaco molto utile per molte patologie, deve essere sempre utilizzato sotto prescrizione medica e sotto il controllo medico, soprattutto il cortisone in forma di collirio. Molto spesso ci si trova a casa sullo scaffale una boccettina magari di collirio con cortisone e si usa con buoni risultati perché sbianca l'occhio e toglie tutti i fastidi, per cui uno tende ad abituarsi poi all'uso di questo farmaco. Ecco, questo può causare dei danni gravissimi ed irreversibili alla vista. E infatti circa un 30% delle persone che usano cortisone vanno incontro senza accorgersene ad un aumento anche molto, molto forte della pressione intraoculare. Magari non ne sono a conoscenza, non se la misurano ed espongono la loro vista a un rischio molto serio. Andiamo a sentire le informazioni sul traffico. Ritorniamo subito dopo con il dottor Oddone, perché vogliamo anche segnalarvi l'opportunità di effettuare dei controlli gratuiti. L'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità ha organizzato in più di 30 città dei check-up oculistici. Ne parliamo e subito dopo pronti con i numeri della vostra pressione. Minima e massima. A tra poco. Cuore e denari. 25 35 25 35 23. Diamo i numeri oggi a Cuore e denari. Nella prima parte parliamo dei numeri della pressione oculare. Ne stiamo parlando col dottor Francesco Oddone, responsabile dell'unità operativa del glaucoma dell'IRCCS Fondazione Bietti di Roma, ma tra poco parleremo anche dei numeri della nostra pressione arteriosa. Naturalmente non poteva mancare il professor Claudio Borghi, che è già in linea con noi. Buongiorno professore. Buongiorno a voi, buongiorno. Direttore dell'unità operativa di medicina interna al Policlinico Sant'Orsola Malpighi di Bologna e presidente della fondazione della Società Italiana della Ipertensione. Grazie. Tra poco saremo da lei, pressione arteriosa minima massima, ma anche la differenza tra i due valori. Professor Borghi, qua in linea con noi c'è un suo collega oculista. È vero che gli oculisti aiutano anche spesso a fare diagnosi di ipertensione? Sì, per la verità gli oculisti aiutano più che altro a fare diagnosi di quello che si chiama danno d'organo dell'ipertensione, cioè a capire che cosa l'ipertensione può avere fatto di male in giro nel nostro organismo e soprattutto nelle nostre arterie, perché gli oculisti detengono l'assoluto potere sull'unico organo nel quale si possono vedere le arterie mentre funzionano senza bisogno naturalmente di intervenire chirurgicamente. Quindi attraverso una strumentazione estremamente accurata e la grande abilità dei nostri colleghi oculisti possono fornirci informazioni sullo stato delle nostre arterie. Dottor Oddone, vede quanti meriti. Ci spiega, dottor Oddone, come viene misurata la pressione oculare, di cui lei ci è così gentile da ricordare i valori? Sì, allora i valori normali della pressione intraoculare oscillano tra i 10 e i 20 mm di mercurio. C'è da dire che pressioni più alte di 20 mm di mercurio non necessariamente vogliono dire glaucoma, quindi questo è compito dell'oculista mettere insieme. Fare la diagnosi, certo. Fare la diagnosi, esatto. Però noi dobbiamo sapere che la pressione oculare va misurata, soprattutto a partire dai 40 anni. E anche prima, se abbiamo dei casi in famiglia. È l'oculista a misurarla? È doloroso? Mi chiedono gli ascoltatori. Assolutamente. La misurazione della pressione intraoculare avviene con una manovra che dura circa 1-2 secondi. Dopo la somministrazione di una gocciolina di anestetico, ed è assolutamente indolore, il paziente neanche si accorge di che sia stata misurata la pressione. Quindi però fa un servizio molto utile alla sua salute e alla sua vista. Esatto. Dottor Oddone, rinnoviamo l'invito a controllare la vista anche in assenza di sintomi. Tra l'altro, sino al 12 marzo vi segnalo che l'Agenzia per la Prevenzione della Cecità ha organizzato dei check-up oculistici gratuiti che includono la misurazione della pressione dell'occhio in più di 30 città a bordo di unità mobili oftalmiche, del camper attrezzati, e anche in alcuni ambulatori oculistici. Naturalmente, non per avere un po' il panorama della situazione, andate sul sito della IAPB, noi mettiamo anche il link. Qua c'è bisogno però di un altro medico. Chi è che ha il raffreddore? Professor Borghi. Lei? Ho un raffreddore piuttosto fastidioso. Adesso si lasci curare da me, che so. Ma io adesso poi abbia fiducia. Ho apprezzato il suo intervento oggi, perché sapevo che lei lo avrebbe fatto, sapeva che io ero ammalato e mi avrebbe potuto aiutare. Almeno due coccole radiofoniche che aiutano. Certo. Dottor Oddone, intanto la ringrazio. Trovate tutte le informazioni sulla pagina di Cuore Denari e anche l'invito dell'avvocato Giuseppe Castronovo, presidente dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione, che vi sollecita ad andare a controllare la vostra vista. Grazie, dottor Oddone. Giorgione, a presto. A presto. A presto, grazie, anzi. A lei, buon proseguimento. Buona giornata. Grazie. Allora, noi manteniamo la parola chiave e praticamente cambiamo ospite, ma l'abbiamo già salutato. Professor Borghi, diamo questi numeri. Perché per la pressione oculare ne basta uno, per quella arteriosa ne servono due. Diamoli subito e così. Sì. Devo dire che per la pressione potrebbero servirne anche di più, ma non voglio ingenerare confusione, ne servono due, nel senso della pressione massima o sistolica inferiore a 140 mm di mercurio, la pressione minima o diastolica inferiore a 90 mm di mercurio. I numeri ci sono, adesso andiamo a interpretarli. Partiamo dal valore della massima, che cosa esattamente si riferisce e quali informazioni fornisce. E poi naturalmente le chiedo la stessa cosa per la minima, per capire quale dei due valori comanda, guida. Ma per la verità entrambi esplorano alcune cose comuni, che sono soprattutto la qualità di funzionamento del nostro distretto vascolare, ma hanno anche qualche differenza sostanziale. In particolare la pressione massima tende a misurare soprattutto la capacità del cuore di pompare e il grado di rigidità della nostra parete arteriosa. Quanto più il cuore pompa in maniera energica e quanto più le nostre arterie sono rigide, tanto più alto è il valore di pressione massima. Naturalmente questi due elementi che costituiscono la pressione massima hanno un significato completamente diverso. Se una buona capacità di pompare, che fa a volte alzare la pressione massima, è indicativa di un cuore in salute, l'aumento della rigidità delle arterie in generale invece è un problema potenzialmente sfavorevole, perché le arterie più rigide fanno aumentare la pressione ma alterano le modalità di circolazione del sangue. Quindi questi sono i due parametri che possiamo derivare dalla pressione massima. La pressione minima misura tutto il resto della funzionalità dell'apparato cardiovascolare, ma soprattutto l'elasticità delle nostre arterie, perché lei deve tener conto che quello che noi leggiamo come pressione minima è sostanzialmente la risultante tra la spinta del sangue nelle arterie e il fatto che queste arterie si lasciano distendere per poi restituire una parte di questa elasticità sotto forma di pressione. Quindi in pratica la pressione minima descrive meglio il circolo periferico, quello più lontano dal cuore. La pressione massima descrive molto meglio il circolo vicino al cuore e la funzionalità del cuore stesso. Prima di dare la linea al nostro GR, anticipo che il professor Borghi oggi ci aiuterà a individuare quei segnali che possono tradire degli sbalzi pressori o una ipertensione non diagnosticata. Il tema è di interesse generale, quindi se siete ipertesi, se non lo siete, se non pensate di esserlo, seguiteci, perché ci sono tante buone ragioni per rimanere incollati a Cuore Denari, ma per quanto attiene il tema di oggi in modo particolare, perché parleremo di segnali di cui spesso non si parla, dalla testa vuota, quel senso di stanchezza, il sangue dal naso, una cefalea inspiegabile. 800 24 00 24, subito dopo Insieme, dopo il GR. Il segnale orario vi è offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Cuore e denari. Eccoci tornati insieme, oggi una puntata dedicata ai numeri. Abbiamo parlato dei valori della pressione intraoculare. Mi raccomando, se avete superato i 40 anni, se avete casi in famiglia, approfittate della settimana mondiale del glaucoma, fatevi fare un controllo gratuito, approfittatene. E adesso parliamo dei numeri della nostra pressione. In linea con noi il professor Claudio Borghi, direttore dell'unità operativa di medicina interna al Policlinico Sant'Orsola Malpighi di Bologna e presidente della Fondazione della Società Italiana dell'Ipertensione. Professor Borghi, abbiamo tantissime domande dei nostri ascoltatori e quindi io e Deborah non lavoriamo, facciamo lavorare a lei, ecco. Io le passo gli interventi, intanto voglio leggerle, voglio dare la precedenza ad un messaggio al 349-238-6666. Mara ci scrive: verso le 4 del mattino aritmia molto forte, pressione 160-104. Sì, è un dato che dovrebbe catturare la sua attenzione, professore? Sicuramente sì. C'è da dire che ovviamente per cavalleria non posso chiedere l'età della nostra ascoltatrice, perché l'interpretazione di questo dato risulta fortemente condizionato ovviamente dall'età. La cosa importante è il fatto che si sia scatenata questa aritmia, che si sia scatenata in un momento della nostra giornata nella quale normalmente il cuore tende a essere poco sotto pressione, e quindi quello che mi viene in mente è che sia fondamentalmente forse una crisi di fibrillazione atriale, quindi un'aritmia che molto spesso si manifesta nei momenti strani della giornata, e l'aumento della pressione non è nient'altro che la conseguenza dell'aumento del battito, quindi è un fenomeno in questo caso secondario. Nel caso della signora Mara l'aspetto importante da investigare è perché si sia scatenata questa aritmia. Una volta risolto quel problema anche la pressione tornerà al suo posto. Professor Borghi, prevale il messaggio che la pressione non dia mai segni. In realtà ha un linguaggio e noi con il suo aiuto impareremo un po' a smascherarlo e a interpretarlo. Ricordiamo sempre che l'ipertensione, proprio come la pressione oculare, può provocare danni seri se non viene diagnosticata. Allora, partendo dalla testa e scendendo ai piedi, quali sono i segnali che possono farci sospettare che la nostra pressione sia vada un pochino fuori norma, si verifichino degli sbalzi pressori? Questo può capitare ad una persona che normalmente non è ipertesa, ma anche a un iperteso già in terapia farmacologica. Certo, mi lasci semplicemente prevedere, questo per dovere della società scientifica alla quale appartengo e della fondazione che presiedo, che la pressione andrebbe misurata indipendentemente dal fatto che compaiono dei sintomi. Quindi comunque sarebbe necessario avere sempre una percezione dei propri valori di pressione senza aspettare che questa possa dare segno di sé dal punto di vista soggettivo. Ma ammettiamo che questo possa avvenire, allora ci sono una serie di manifestazioni che possono essere abbastanza evocative della presenza di ipertensione, che spesso vengono misconosciute perché assomigliano a sintomi di altre condizioni con le quali noi conviviamo giornalmente. Certo. Partendo dalla testa, sicuramente la cefalea. La cefalea forse è il sintomo più frequente, dovuto al fatto che quando la pressione sale oltre un certo livello tende a distendere le arterie che stanno dentro il nostro cervello, e questo è una cosa che in generale non è gradita da queste arterie, che mandano un segnale negativo, cioè mandano un segnale di attenzione dicendo: guarda che sta succedendo qualcosa, secondo me, per cui il sangue circola troppo o troppo in fretta. Quindi una cefalea un po' inspiegabile. Una cefalea inspiegabile in una persona che non ha mai sofferto di cefalea, che non ha sofferto di emicrania, che compare in maniera inusuale, soprattutto in momenti di grande tensione o di grande concentrazione o in corrispondenza di concentrazione di eventi emotivi, ad esempio, può essere evocativa di un aumento della pressione, non necessariamente è una cosa senza significato. E di questo ci siamo reso conto chiaramente quando abbiamo analizzato gli studi di riduzione della pressione, perché se lei riguarda con attenzione noterà che l'incidenza di cefalea dopo la terapia antipertensiva si riduce del 50%, il che vuol dire che molti pazienti erano cefalalgici per colpa dell'ipertensione, ma hanno trattato l'ipertensione e hanno guadagnato una qualità di vita migliore. Anche la testa vuota, giramenti la di testa. La testa vuota, la difficoltà di concentrazione, sono tutti elementi che hanno lo stesso significato che indicavo in precedenza, ossia il nostro cervello ha una fascia di circolazione del sangue entro la quale ha un funzionamento ottimale. Il sangue non deve circolare né troppo né troppo poco. In generale, quando tende a circolare troppo per aumento della pressione, o naturalmente può comparire la cefalea, ma compaiono anche alcuni, diciamo, effetti che sono legati al nostro funzionamento cognitivo, quindi la sensazione di testa vuota o di vacuità del nostro pensiero, come pure questa sensazione di difficoltà di concentrazione. Noi tentiamo di concentrarci su qualcosa di specifico, ma ci risulta difficile ciò che facciamo normalmente nella propria vita. Questi sono tutti segni che possono essere conseguenti a un aumento della pressione. Sangue dal naso? Sangue dal naso ce lo dimentichiamo. Il sangue dal naso è uno dei falsi miti associati all'ipertensione. Fondamentalmente il sangue dal naso conseguente all'ipertensione è quello arterioso. Il sangue dal naso, quello che si chiama tecnicamente epistassi arteriosa, rappresenta non più del 3-5% di tutte le epistassi. Le altre sono venose, quindi gli altri sangue dal naso sono un sanguinamento venoso, e ricordiamo che alle vene non si trasferisce la pressione, quindi le vene non hanno ipertensione. E il sangue dal naso venoso è dovuto generalmente ai raffreddori ricorrenti, insomma a una serie di aspetti per i quali vi rimandiamo ad un'altra puntata di Cuore Denari. A un otorino laringoiato, ecco, o a qualcuno che tratti anatomicamente quella zona. C'è un'altra cosa invece da ricordare: il motivo per cui questo mito si è creato è che molto spesso io che faccio un sanguinamento dal naso imponente, mi reco al pronto soccorso per cercare di tamponarlo, aspetto un certo periodo di tempo, ovviamente per questa cosa, perché non è una complicanza grave, e quella permanenza in un ambiente medicalizzato con il sangue che esce dal naso fa sì che i valori di pressione salgano, ed è chiaro che se io applico uno sfigomanometro a un paziente che da 3 ore sta aspettando di tamponare un'epistasi, fatalmente quello ha la pressione più alta, ma è una conseguenza, non è la causa. Del soggiorno, dell'attesa, certo, al pronto soccorso. Certo. Nessuno si sente a proprio agio in un, allora, pronto soccorso, Giuseppina, nemmeno io mi sentirei. Giuseppina dalla provincia di Cremona e Luigia da Roma, poi vogliamo invitarvi, abbiamo una piccola sorpresa per voi e anche un appuntamento da lanciare insieme, coinvolgeremo anche il professor Borghi, perché riguarda un po' la pressione, riguarda gli animali, riguarda il nostro modo di passare magari un weekend. Allora Giuseppina, velocemente dalla provincia di Cremona. Grazie, buongiorno. Chissà che pressione ho io che ho un mutuo adesso dopo aver sentito le notizie. Va bene, ma lei resti con noi e vedrà. Basta che non ce l'ha in franchi svizzeri, e quindi è tranquilla. Ma guardi, qui non è più niente di tranquillo. Vero, veramente. Vero anche quello. Vero però anche quello. Vi accarezziamo noi, speriamo. Grazie. Grazie. Per chiedere questo all'esperto, al dottore, gli apparecchi per misurare la pressione, sia in ambiente casalingo che nei vari ambulatori che oggi sono un po' in tutte le città, farmacie, piuttosto che associazioni varie, è più consigliabile l'apparecchio elettronico, quello a colonnina, quello che oggi sembra un po' essere l'ultimo ritrovato, cioè le 3 misurazioni e poi ti dà il valore della media con la frequenza cardiaca, oppure il fonendo con lo sfigmo? Chiedo, grazie. Grazie, professore. Una domanda, sai, interessante, che la maggior parte delle persone si chiedono, ma direi che la signora ha toccato i punti principali. Per renderla condensata direi strumenti automatici, sicuramente sì, funzionano molto bene, a patto che misurino dal braccio, io suggerirei di evitare le misurazioni dal polso, sono prevalentemente certificati, la maggior parte di quelli che lei può trovare in vendita sono certificati, direi il 90%, perché gli altri sono già usciti dal mercato. La pratica delle 3 misurazioni è una pratica fondamentale, perché in generale la prima misurazione è più alta e non veritiera, quelle 2 successive sono più vicine alla pressione normale, ci sono alcuni algoritmi che scartano la prima e fanno la media tra le seconde, altri che considerano la media dei 3 valori, quello però è una cosa importante perché rappresenta sicuramente un valore vicino alla normalità. Nel rapporto farmacia e domicilio io privilegio certamente il domicilio, primo perché gli strumenti sono di nostra proprietà e non hanno un uso pubblico promiscuo che potrebbe anche avere un effetto sulla loro taratura, e l'altro aspetto importante secondo me è il fatto di avere a disposizione uno strumento che ci possa permettere di misurare la nostra pressione nel momento in cui ci sentissimo in difficoltà per vari motivi, senza bisogno di uscire di casa e ricorrere a una farmacia. Professor Borghi, allora, se la pressione si muove, leggermente mossa, leggermente altina, si scopre andando dal medico, misurandola a casa, andando magari a misurarla in farmacia, il nostro medico curante che cosa ci dice? Ci raccomanda, magari se siamo un po' sovrappeso, di metterci un pochino a dieta, di regolarci un po' e di fare un pochino di attività fisica, bastano i soliti passi, no? Un po' di qualche passo in più al giorno per guadagnare salute. Se noi riusciamo poi ad accompagnare o a farci accompagnare in questa passeggiata da un amico a 4 zampe, professor Borghi, questo funziona ancora meglio. Lei è d'accordo con me? E le ricerche lo dicono. Io sono d'accordo e ho fatto e continuo a fare tuttora una grande campagna dove posso e quando posso per questo aspetto, perché i nostri amici a 4 zampe hanno 2 capacità. La prima è quella di costringerci a muovere, e in pratica ci fanno muovere esattamente come noi chiediamo ai nostri pazienti di muoverci, quindi una certa durata di questa passeggiata di buon passo, perché nella grande maggioranza dei casi soprattutto i cani hanno un passo di marcia piuttosto rilevante, tranne che il mio, a cui piace annusare qualsiasi cosa, per cui mi costringe a fermarmi ogni 5 metri, ma sono io che accondiscendo a queste sue funzioni, certo. L'altro aspetto importante è che gli animali, i cani in particolare, ma apparentemente non soltanto i cani, funzionano nei nostri confronti come una sorta di spugna psicologica per lo stress. Ci sono studi che dimostrano che la convivenza con un animale domestico dimezza la nostra reattività nei confronti dello stress, e quindi in qualche modo, oltre a esserci amici, dimezzano e condividono con noi anche i momenti più difficili, quindi sono parecchi i motivi attraverso i quali possono influenzare la pressione. Ecco, potrebbero anche avere un effetto antipertensivo, perché ci fanno muovere, riducono lo stress. Tu non hai la pressione problematica, ma no, la emona tira? Ma la emona tira quando vede qualche cane che abbaia prima di lei. Allora, e a proposito di cani, di passeggiate, dell'effetto salutare della compagnia di un amico a quattro zampe, parliamo con Angelo Vaira, conduce con Rosita Celentano Chiedimi se sono felice. Angelo, buongiorno. Hai sentito che spottone ti ha fatto il professor Borghi? Mamma mia. Quanto è bello sentire queste cose per radio. Vero? Bravissimo. Buongiorno a tutti. Allora, c'è anche una ragione in più per fare quattro passi? Magari sabato 12 marzo, ecco, magari a Milano, esatto. Magari alla Palazzina Piani, all'Arena Civica Parco Sempione, alle 15. Esatto. Quindi si arriva a Parco Sempione, magari anche in compagnia del nostro cane, ma in realtà avremo già noi dei cani, ci sono degli operatori specializzati nell'attività ludico-ricreativa tra cani e bambini, quindi uno può arrivare con i propri figli lì e si diverte, questo per un'oretta, dalle 15 alle 16. Dopodiché alle 16 attacchiamo io e Rosita Celentano insieme a Igor Sibaldi, che è un filologo esperto di spiritualità, teologia, psicologia, e parleremo con lui della genitorialità, cioè che cosa gli animali ci possono insegnare a proposito dell'essere bravi genitori. Questo dalle 16 in poi, sempre all'Arena Civica di Milano, Palazzina Appiani. Per partecipare però è necessario registrarsi su www.radio24.it per partecipare a questo evento. Professor Borghi, non so se lei riuscirà a partecipare, ma venga, io glielo racconterò. Fare un giro. Se è possibile, molto volentieri, anche perché tutto quello che viene fatto in questa direzione credo che sia assolutamente straordinario. Ad esempio, in questi ultimi anni ho letto sui giornali che abbiamo osservato una riduzione importante dell'abbandono degli animali, in particolare dei cani. Ora, probabilmente questo dipenderà anche da fenomeni contingenti, ma io voglio pensare che attività come quella che voi promuovete, tutto quello che noi stiamo cercando di fare a favore degli animali, funzionino, possa aiutare anche in questa direzione. Romanticamente voglio pensare che possiamo avere fatto qualche cosa per queste persone, vede, le ho chiamate persone, vede, per questi esseri che, sì, che per noi fanno moltissimo e in cambio non chiedono praticamente niente. Grazie professor Borghi, appuntamento allora con Angelo Vaira, tutte le informazioni sul sito di Radio 24. E adesso altro che, c'è da farci salire di nuovo la pressione. Guarda, professor Borghi, non c'è abbandonare i cani qua è ora di cominciare ad abbandonare tutte le banche, purtroppo non possiamo farlo, ma dobbiamo difenderci in qualche modo. Sentite il nuovo caso il caso di cui parliamo oggi. Questa indicizzazione ogni 6 mesi aumentava di 3.000-4.000 euro in più, oltre, diciamo, alla rata che io pagavo, e finché non ho potuto più pagare niente. Io non sapevo niente di questo, fatto in franchi svizzeri, indicizzazione, ma non esiste. Io sono qui a lavorare, ho pagato quello che finché potevo pagare, però non riesco più ad andare avanti. Io faccio le pizze, impasto le pizze, non sono le finanze, non ne capisco niente. Mi fidavo della banca, scusa, la banca ti dà i soldi, se non ti fidi di lei, di chi devi fidare? Allora, questo era un brano di un servizio andato in onda nella trasmissione La Gabbia il 23 febbraio del 2015, se Marco non mi ha segnato male l'indicazione, febbraio 2015, e anche in quel periodo il Sole 24 Ore scriveva diffusamente di questa questione. A più di un anno di tempo ne torniamo a riparlare, perché non solo non si è risolto un bel nulla, ma l'amara sorpresa se la stanno ritrovando in pancia molte altre famiglie. Quindi, di nuovo mutui a cuore e denari. Come avevamo promesso ad alcuni ascoltatori qualche puntata fa, torniamo ad occuparci di una partita di mutui sottoscritti qualche anno fa, esattamente nel periodo compreso fra il 2003 e il 2009, con la banca inglese Barclays prevalentemente. Mutui un po' particolari perché, come sosteneva la persona sentita prima nel servizio della trasmissione della 7, perché il tasso di interesse era calcolato sulla base dell'andamento del franco svizzero in un rapporto di cambio che evidentemente all'epoca era molto favorevole. Poi le cose sono cambiate, il cambio è diventato svantaggioso, peraltro il rapporto fra euro e franco ha vissuto delle fasi alterne che magari dopo ricorderemo, ma queste famiglie, fatto sta, si sono trovate a gestire una doppia sorpresa negativa. Intanto un capitale residuo da pagare che, se calcolato in questo momento, sarebbe praticamente moltiplicato rispetto alla cifra che hanno preso inizialmente, ma poi veramente oltre al danno la beffa. In questo momento praticamente non hanno nessun interlocutore fisico al quale rivolgersi, perché negli ultimi mesi abbiamo saputo che Barclays Italia ha chiuso i battenti nel nostro paese, almeno per quello che riguarda il pubblico retail, e gli sportelli sono stati acquistati da Chebanca, del gruppo Mediobanca, che bisognerà capire come potrà e dovrà gestire la patata bollente. Noi in realtà lo sappiamo perché le due banche le abbiamo interpellate, ovviamente hanno scelto di non venire fisicamente a spiegare alcunché alle persone che hanno bisogno di avere delle informazioni, ci hanno mandato delle risposte scritte che poi vi trasmetterò naturalmente, che non ci sono piaciute molto perché rimbalzano allegramente la situazione a chi? Ai call center di Barclays che rispondono dall'Albania. Per cui Nicoletta, tu puoi immaginare le persone che hanno bisogno di qualche informazione in questo momento dove possono sbattere la testa. Dove la sbattono? Dalle associazioni dei consumatori. Noi fra un po' vi presenteremo gli ospiti di questa mattina. Due associazioni dei consumatori molto attive su questo problema in questo momento, ma prima di sentire Lega Consumatori Treviso e Altro Consumo, sentirei due persone che ci hanno scritto nelle scorse settimane pregandoci di affrontare l'argomento. Daniela da Saronno, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Daniela ci aveva scritto, lei da quanto tempo ha questo mutuo, quanto ha chiesto inizialmente e se oggi volesse estinguere questo mutuo, quanto si troverebbe a dover ripagare a Barclays? Allora, noi abbiamo fatto questo mutuo a dicembre del 2007, che per vari motivi siamo finiti in questa patata bollente perché le altre banche ci hanno chiuso le porte. In poche parole, e Barclays ci ha proposto questo mutuo non specificando i problemi che c'erano col franco svizzero, ma semplicemente dicendoci di non farci problemi perché era comunque un mutuo in euro. L'unica cosa era che invece che appoggiarsi all'Euribor si appoggiava all'Libor, perciò gli interessi erano leggermente più bassi, automaticamente noi non avremmo avuto alcun problema a pagare le rate mensili. Il Libor, lo voglio spiegare ai nostri ascoltatori, mentre l'Euribor è il tasso di interesse a cui le banche tra di loro si prestano denaro nell'Eurozona, il Libor è invece il tasso di interesse di mercato a cui le banche si scambiano prestiti in franchi svizzeri, quindi è una roba un po' complicata per noi comuni mortali, Daniela. Quindi, infatti io non avevo capito assolutamente nulla. L'unica cosa che mi era venuto qualche sospetto dicendo indicizzazione al franco svizzero, allora avevo fatto domande del tipo ma il franco svizzero cosa c'entra, cosa non c'entra, e loro mi hanno subito bloccato dicendo no, signora lei non capisce, lei sta facendo comunque un mutuo in euro. Effettivamente io ho tutti gli incartamenti dall'inizio ad oggi solo in euro. Di franco svizzero non ho alcun riferimento. Quando però ho voluto chiedere la surroga, mi sono ritrovata una sorpresa, perché io avevo un capitale residuo di circa 175.000 euro. Secondo il suo calcolo, naturalmente, secondo anche quello che risultava, immagino, dall'ultima rendicontazione del piano di ammortamento. Ecco. Certo, perché dal piano di ammortamento io ho chiesto i loro conteggi e anche parlando al call center, che fra l'altro sempre o Albania o qualche altro paese, ma mai in Italia, mi avevano detto di guardare semplicemente quello che c'era scritto in euro. Quindi per cui era circa 175.000 euro. Ecco, peccato che lei ad un certo punto scopre la clausola, secondo la quale? No, perché poi quando sono andata alla banca dove avrei dovuto appoggiare il nuovo mutuo, mi ha detto di fare avere il conteggio per iscritto. Arrivato il conteggio per iscritto mi sono ritrovata ad avere 277.000 euro. Peccato che io all'inizio gli ne ho chiesti solo 200. Certo, perché praticamente le hanno fatto una rivalutazione secondo il rapporto di cambio euro-svizzero nel momento in cui lei ha chiesto l'estinzione, naturalmente. Certo. Cosa ha fatto Daniela? Esatto, Daniela, quindi abbiamo capito. Lei che cosa ha fatto? Come si è mossa? È riuscita a portare avanti la surroga? A questo punto ha solo denunciato la situazione, naturalmente, in attesa di capire. No, perché alla fine così non potevo, perché mi ritrovo a non avere tutti questi soldi. Certo. Perciò mi sono girovagato un po' su internet e ho scoperto che molte che siete altre persone, in tanti. Sì, siamo veramente in tanti e abbiamo fatto un gruppo abbastanza cospicuo e cerchiamo di aiutarci l'un con l'altro. E probabilmente ci sono anche molti in Italia che non sanno della costituzione di questi gruppi, Daniela, speriamo che lo vengano a sapere oggi così da fare una battaglia un po' più significativa. Daniela, io la devo salutare adesso perché devo raccontare la borsa. Poi andremo a sentire Gabriele da Pordenone, poi sentiremo anche i nostri interlocutori dal punto di vista dell'Associazione dei Consumatori, che cosa suggeriscono di fare, perché in questo momento veramente si brancola nel buio, dato che soprattutto, ribadisco, non c'è nessuno al quale rivolgersi. Pazzesco. Né in Italia, queste persone qua teoricamente dovrebbero parlare solo con Londra, e la banca che ha acquisito gli sportelli di Barclays in Italia, cosa ci ha detto ieri? Noi abbiamo acquisito solamente le famiglie come clienti che hanno i mutui buoni, comprensibili, nella fattispecie, cioè questo è quello che ci hanno detto, per cui i signori che hanno i mutui in franchi svizzeri non ce li siamo presi in carico. Pensa un po' tu, ma Nicoletta. Io sono senza parole. Andiamo a sentire i mercati. Cuore e denari. Ci abbiamo fatto anche il domandone in una puntata su questo inno nazionale, qualche tempo fa, l'inno nazionale della Svizzera, che ecco, ci manca solo di rivolgerci a loro per avere chiarimenti su questa triste vicenda che tocca molte famiglie italiane che una decina d'anni fa hanno sottoscritto mutui in franchi svizzeri e oggi si trovano una amara sorpresa, soprattutto coloro che vorrebbero chiudere magari questo mutuo, si ritrovano un capitale residuo praticamente raddoppiato rispetto al capitale iniziale chiesto alla banca, e questo per effetto del cambio. È una situazione abbastanza complessa della quale sono profondamente a conoscenza invece alcune associazione dei consumatori che sono molto attive su questa vicenda. Allora intanto ringrazio e saluto per essere con noi, fra un po' sento anche l'altro ascoltatore che ci ha scritto e a cui abbiamo dato voce, Gabriele da Pordenone, ma volevo ringraziare anche Francesco Tarantolo che dalla Lega Consumatore Treviso ci ha segnalato questa vicenda. Anche la Lega Consumatori è un'associazione dei consumatori con la quale lavoriamo molto, e Francesco Tarantolo appunto attivamente con il suo sportello sta seguendo alcune persone incappate in questa vicenda. Tarantolo, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno Deborah, la ringrazio di avermi invitato. Grazie a lei. Sì. Infatti io ho un caso analogo a quello della signora che ha parlato prima. Beh, in particolare il mio caso, questo signore qua che aveva sottoscritto un mutuo nel 2007 si ritrova ad avere un capitale residuo da estinguere di 144.000 euro e la rivalutazione 50.000 euro. Quindi 194. 194, ma qui parliamo ancora, siccome il conteggio è ancora l'anno scorso e quindi il cambio era 1 a 1,21, adesso siamo intorno a 1,10, quindi sicuramente sì, l'importo da restituire è superiore. Addirittura, allora, mutuo iniziale chiesto ed erogato 160, dalla banca 160. 160. Quindi a questo punto il cliente mi ha detto: ma io le rate che ho pagato dove sono andate a finire? Io ho detto probabilmente su qualche altro mutuo. Ecco. Ecco. Tarantolo, allora voi Lega Consumatori, voi per Treviso ma anche per le altre vostre, come dire, filiali sul territorio, che tipo di strada state suggerendo di perseguire a queste persone? Perché voi, ecco, il tema è che avete fatto, siccome le iniziative sono state un po' in ordine sparso, ma speriamo che qualcuna sia efficace ed obblighi in qualche maniera la banca a rispondere di questo, voi avete presentato ricorso a dicembre dell'anno scorso all'arbitro bancario finanziario di Milano. Con che risposta? Beh, attualmente la risposta non ce l'abbiamo, però posso dire che su casi analoghi l'arbitro bancario finanziario di Milano, tipo quella del 29 luglio 2015, ha dato ragione, diciamo, a chi ha contratto il mutuo, dichiarando la nullità della clausola articolo 7 del contratto di mutuo, cioè dove prevedeva la clausola di, in caso di estinzione anticipata, il capitale doveva essere ricalcolato in base al tasso di cambio. Esatto, però questa è anche una cosa interessante, perché alla fine la banca dice comunque queste persone hanno sottoscritto un contratto e chiede naturalmente che questo venga rispettato, a prescindere poi dal danno che ricade su queste famiglie, no? Certo, Tarantolo, però, però Debora, il discorso è questo, cioè sull'articolo 7 era abbastanza ambigua la formulazione. Infatti l'arbitro bancario finanziario ha proprio precisato questo, cioè che è ambiguo. Come fa una banca, io dico, quando concede un mutuo per una durata ventennale a diciamo, caricare il rischio di cambio sui clienti su un periodo così lungo. Sa come fanno? Che loro l'hanno indicizzato al franco svizzero, siccome quando i mercati si muovono viene generalmente considerato un asset sicuro, questi pensavano, figuriamoci, indicizziamo a un qualcosa che è generalmente considerato una cassaforte. Qua io ci scherzo un po' per sdrammatizzare Tarantolo, ma c'è ben poco da scherzare naturalmente. Qua no, è stato tutt'altro che bene rifugio il franco svizzero in questo caso, è stata una bella beffa e lo è ancora appunto per molte persone. Quindi adesso noi come associazione dei consumatori ci stiamo muovendo in questo senso qua, cioè prima facciamo il classico reclamo alla banca, dopo avuta la risposta andiamo a fare ricorso all'arbitro bancario. Avete fatto reclamo alla Barclays quindi, Taranto? Certo, no, certo. Mi dica dove avete trovato l'interlocutore, a chi vi siete rivolti, a Londra? No, a Milano. Ufficio reclami via Conati 1 a Milano. Vi hanno risposto? Certo, hanno risposto una risposta generica. Poi le dico quella che hanno mandato a me. Una risposta generica, quindi successivamente a questa abbiamo fatto ricorso all'arbitro bancario di Milano. E stiamo aspettando ancora la risposta, però casi analoghi, come ho già detto in precedenza, sono stati trattati favorevolmente a chi ha contratto il mutuo. Allora, sì, infatti. Allora, adesso vi leggerò la risposta che hanno dato a me. Intanto saluto Anna Vizzari, Ufficio Studi Economico Giuridici di Altro Consumo. Buongiorno Anna, ben ritrovata. Buongiorno. Anna Vizzari per Altro Consumo. Altro Consumo ha fatto un altro tipo di iniziativa, conto Barclays, sì. Adesso ve la spiegheremo. Vorrei sentire anche Gabriele da Pordenone, che è un altro ascoltatore che ci ha segnalato la sua vicenda con una mail qualche tempo fa, per cui lo abbiamo ripescato anche in questo caso per sentire la sua situazione. Gabriele, buongiorno. Mutuo iniziale richiesto, se oggi lo volesse estinguere, quanto dovrebbe restituire a Barclays? Buongiorno Deborah. Allora, mutuo stipulato nel 2008 su capitale di 130.000 euro, a oggi avrei un residuo all'incirca di 96.000, dovrei restituire a Barclays 150.000 euro. Certo, sempre per effetto del cambio. 650. Sempre per effetto del 150. Cambio. 150. Ah, no. Lei adesso, tra l'altro, come se ne è accorto, Gabriele, di questa vicenda? Perché il tema è anche capire, lei da quello che mi aveva scritto stava ricevendo, come dire, l'estratto conto del mutuo e il piano di ammortamento come se stesse rimborsando regolarmente, come se avesse un capitale residuo da 96. Esattamente. Allora, tutte le comunicazioni Barclays sono sempre arrivate in euro e continuano ad arrivare in euro. È solo dal 2013 che stanno applicando un asterisco che bisogna fare una rivalutazione, ma non viene messa nella formula matematica. E comunque potrebbero farlo loro il calcolo, anche perché poi i calcoli a loro vantaggio li sanno fare molto bene. Sì, perché la formula lascia il tempo che trova, senza considerare che anche per le dichiarazioni ci troviamo in difficoltà, perché non sappiamo mai cosa certificare. Cioè, quindi quando l'ha scoperto lei, Gabriele, ha chiesto il conteggio finale perché voleva estinguerlo? No, io l'ho scoperto quasi subito, devo essere onesto, io l'ho scoperto quasi subito. Ho chiesto informazioni, però mi è stato detto di stare tranquillo, che c'era praticamente come accessorio a questo mutuo, c'era un conto deposito che sarebbe rappresentato come il stop loss alle mie perdite. Certo, infatti come se fosse un investimento sul mercato azionario, lo stop loss è un termine che si usa solamente in quel mondo là. Infatti tanti che ci accusano di aver fatto un investimento, io chiedo, sì, ma ci hanno presentato i rischi, ci hanno fatto firmare dei moduli, niente. Cioè la banca dal primo giorno che ha stipulato il mutuo l'ha parametrato un tasso di cambio convenzionale che già il primo giorno era a suo favore. Cioè non è che ha sempre guadagnato la banca. E io dico, guardi, che ci perdano proprio, è proprio uno scenario praticamente impossibile, Gabriele. No, ma io che leggo, sì esattamente, io che leggo anche tante volte il giornale, leggo anche di sentenze su Barclays che ha manipolato il Libor, ha manipolato tassi di cambio, io dico questo contratto dovrebbe essere nullo di suo. Certo. Perché io c'ho Libor e tasso di cambio, se la Barclays li ha manipolati, sono sentenze finali, dico, ma di cosa stiamo parlando? Ma certo, risponderanno, speriamo, Gabriele, anche di quello, è tutta documentazione che si accumula e che potrà essere utilizzata appunto anche in un'eventuale istruttoria contro questa banca per questo comportamento, almeno noi lo speriamo, ma noi siamo sempre Alice nel Paese delle Meraviglie, speriamo sempre per il lieto fine di tutte le vicende, poi non abbiamo quasi mai ragione. Detto questo, daremo battaglia su tutto ciò. Allora, abbiamo oggi veramente il tempo ci sta scivolando di mano, per far argomentare bene le tesi ad Anna Vizzari le chiedo ancora un istante di pazienza per sentire il traffico e poi sentiamo un po' che strada ha preso Altro Consumo, che risposte ha avuto a un'azione inibitoria in corso nei confronti della banca. Sentiremo in che cosa consiste. Q cuore e denari. Aiuto, aiuto, ho fatto il mutuo, ho acceso mutuo. Aiuto, aiuto. Allora, molti ascoltatori dicono, ma insomma, queste persone perché hanno sottoscritto questi mutui? È vero, sicuramente questa è una lezione che ci portiamo a casa. La prossima volta che la banca ci propone qualcosa di così stravagante, saremo oggi più consapevoli e in grado anche di dire di no. Cerchiamo qualcosa di più semplice, soprattutto se abbiamo bisogno di un importo molto alto, ci dobbiamo indebitare per molti anni della nostra vita. E se molte banche ci dicono di no, questo è anche un po' un messaggio per la Daniela iniziale, che ovviamente non vogliamo colpevolizzare, per carità del cielo. Però se 5 banche ci dicono di no e arriva, di no, e arriva la sesta che miracolosamente ci accontenta con qualcosa un po' di strano, forse è meglio ripensarci un secondo e magari aspettiamo un momento della nostra vita personale più favorevole anche per fare un mutuo di così grande portata. Detto questo, dopo aver fatto la lezioncina, che è facile col senno di poi, me ne rendo anche conto, Anna Vizzari, cosa state facendo voi per dare battaglia su questa vicenda? Altro consumo. Sì, che cosa abbiamo già fatto? Perché noi siamo già attivi da febbraio dello scorso anno sull'argomento. In realtà noi ci siamo già rivolti al Tribunale di Milano, abbiamo già ricevuto, diciamo così, la decisione finale del giudice a novembre dello scorso anno. Tra l'altro, Anna, quante istanze avete portato con voi? Nel senso, esiste una fotografia di quante persone siano coinvolte, certo, in questa Barclays vicenda? Ci ha comunicato che sono 5.500 i contratti coinvolti nella vicenda, quindi non stiamo parlando di poche centinaia di mutuatari, insomma il numero è abbastanza consistente. Allora, il nostro giudizio in tribunale era sostanzialmente un'azione cautelare, perché volevamo un provvedimento d'urgenza, visto che comunque i mutuatari stanno subendo anche delle ripercussioni economiche già sulle rate che stanno pagando e sull'impossibilità di poter trovare dei tassi più bassi. Ecco, quindi non è un problema che riguarda solamente chi vorrebbe fare l'estinzione anticipata e adesso, facendo il conteggio finale del piano di ammortamento, scopre che avrebbe questo residuo, ma le rate già sono aumentate parecchio. Ma certo, nel senso che c'è già un meccanismo di indicizzazione nella rata, per cui in realtà al di là dell'estinzione anticipata il mutuo è indicizzato al franco svizzero, alcuni già hanno subito un incremento della rata. Ovviamente vogliono lasciare Barclays per trovare delle condizioni migliori, ma non possono farlo perché appunto la clausola sull'estinzione anticipata, che introduce un'ulteriore indecizzazione, impedisce loro di farlo perché subirebbero delle perdite consistenti. Detto questo, il nostro provvedimento d'urgenza è stato rigettato dal giudice perché non ha ritenuto in realtà evidente questa necessità d'urgenza, ma la sentenza è molto importante perché dice per la prima volta che la clausola è vessatoria e quindi i singoli possono chiedere al tribunale, con giudizi ovviamente individuali, con azioni individuali, di la nullità della clausola e quindi chiedere l'estinzione del mutuo senza la famosa rivalutazione. È vero però che appunto non si tratta di una decisione già operativa, c'è bisogno che ognuno si attivi per chiedere questo nelle singole azioni individuali. Detto questo, devo dire che noi con Barclays siamo riusciti a parlare semplicemente via avvocati. Ovviamente in giudizio ci siamo incontrati avvocati, abbiamo incontrato gli avvocati di Barclays, è stato impossibile che sono parlare dello studio legale Link Lakers, se non mi ricordo male. Esatto, corretto, e non è stato possibile parlare con i tecnici di Barclays. Abbiamo anche ricevuto delle proposte che a loro avviso dovevano risolvere la situazione. Le proposte che abbiamo visionato e che ovviamente non abbiamo accettato perché sono veramente ridicole, e che sostanzialmente la tipo che cosa hanno proposto? Ecco, appunto stavo dicendo, la rivalutazione viene ad essere, comunque rimane, quindi sostanzialmente il mutuatario assorbisce tutta la perdita, ma viene rateizzata, quindi anziché pagare tutto subito adesso si rimane con Barclays. Gentile. Esatto, si subisce la rivalutazione e la si paga sulle rate. Ovviamente c'è da commuoversi. Esatto, quindi c'è una proposta del tutto assurda che noi ovviamente non abbiamo accettato, quindi al momento siamo in una situazione sostanzialmente di chiusura con Barclays. Senta, la quale peraltro ha lasciato l'Italia, per cui brava, potenzialmente allora, esatto, allora io che cosa ho fatto ieri? Sono andata a rivolgermi a quella che secondo il mio percepito potrebbe essere la nuova figura di interlocutore, no, di queste persone, perché c'è Chebanca, del gruppo Chebanca, che ha acquisito le attività retail sul territorio italiano di Barclays. E loro che cosa mi hanno risposto? Noi su questo tema non parliamo perché non rientrano nel perimetro che abbiamo acquistato noi di Barclays, cioè i mutuatari in franco svizzero. Abbiamo acquistato solo una parte dell'attività retail, e cioè mutui residenziali per quasi 3 miliardi senza sofferenze ed allineati agli standard qualitativi di Chebanca, e quindi in questo perimetro non rientrano i mutui indicizzati al franco svizzero. Sì, sì, corretto. Infatti Barclays comunque parla ancora lei direttamente con noi della situazione. Non ci ha detto abbiamo venduto il pacchetto a che banca. E sappiamo bene che questi mutuatari continueranno a pagare le rate sostanzialmente alla banca inglese. E devo anche aggiungere che Barclays ha lasciato l'Italia, ovviamente non ha assolutamente nessun timore di non adempiere alle decisioni dell'ABS, dell'arbitro bancario, per cui l'arbitro bancario gli sta dando contro su diverse decisioni continuamente, ma Barclays non adempie, quindi il mutuatario sostanzialmente è costretto comunque a a pagare quanto richiesto alla famosa clausola. Il problema grande, Anna Vizzari, è che appunto le pronunce, le decisioni dell'arbitro bancario finanziario sono generalmente non vincolanti, Però, per questo sarebbe importante una pronuncia di un giudice. Esatto, c'è bisogno della pronuncia del giudice, però è vero che ci rendiamo anche conto che i singoli mutuatari possono anche avere delle difficoltà, ecco, a rivolgersi direttamente al giudice, si apre un contenzioso veramente lungo, ecco, non è una cosa che si risolve facilmente e velocemente. È straordinario che una banca possa comportarsi così, lasciando sostanzialmente prigionieri e mutuatari in balia di questo articolo, che peraltro è scritto malissimo, ha proprio degli errori. Grammaticali nella costruzione, quindi in realtà sarebbe già per questo impossibile da applicare. Stiamo andando verso la chiusura, Anna, sì. Poi le faccio sentire, magari sentiamo anche Francesco da Como, così mettiamo altre testimonianze ad arricchire la nostra puntata di stamattina. Francesco, veloce, grazie. Sì, grazie a voi. Niente, velocissimamente, anch'io ho sottoscritto questo tipo di mutuo. E sinceramente, per quanto mi riguarda, insomma, io prendo lo stipendio in franchi svizzeri, per cui, volendo guardare, cioè, il problema mi si presenta se io dovessi estinguere. Effettivamente, più o meno, sono sempre quei 90-100 mila euro in più. Certo, per l'amor di Dio, attenzione. Però, sinceramente, a me me l'hanno detto. Io è questo che volevo portare la mia testimonianza. A me qui è stato detto. Lei ha capito perfettamente, esatto, ma forse anche proprio in ragione della sua esperienza lavorando già in quella, quindi aveva conoscenza del rapporto di cambio e la dinamica. Esatto, perché io lavoro in Svizzera, prendo lo stipendio anche in svizzeri, per cui non è che mi cambia più di tanto. Sapevo, quando ho sottoscritto era 1,58, ora stiamo parlando di 0,90 il franco, per cui c'è il danno per quelle persone che abbiamo. Poi anche c'è stato il periodo di blocco del cambio tra il 2011 e il 2015, il cambio fisso a 1,20, poi sganciato improvvisamente con tutta la tempesta sui mercati di un anno fa, per cui anche lì attenzione a tutto ciò che è legato ai movimenti valutari e alle disgrazie che poi ci possono finanziariamente capitare. Anna Vizzari, 10 secondi di tempo, 20 anzi, per concludere. A questo punto che cosa attendiamo prima di dare un'altra battaglia radiofonica? Ecco, già passare le battaglie radiofoniche può servire, perché sicuramente è un danno reputazionale per la banca. Ma non gliene frega mai niente a queste qua. Ma rimane in Italia per altre attività, quindi sicuramente un po' da fastidio. Tant'è che l'unica lamentela che abbiamo ricevuto da Barclays è sul nostro video presente sul sito. Siamo stati diffidati dal mandarlo in onda, perché secondo loro danneggiamo la loro reputazione. Quale video? Quello dove lei era ospite di Rai 3, di Mi Manda Rai 3? No, un altro ancora. Del nostro video con le testimonianze dei mutuatari, e noi che andati in una filiale Barclays a chiedere i conteggi. Prenda anche il podcast di questa puntata e mettete in circolo anche questo, Anna, e noi prenderemo il vostro video, lo metteremo sui nostri social e vediamo chi ha ragione. Ma pensa te, non vogliono che vadano in onda. A presto, noi torniamo domani invece.